Pietro Valpreda nelle cronache d'epoca veniva comunemente definito un ballerino. E in effetti al mondo dello spettacolo musicale non era estraneo, ma questa attività non esauriva certo le sue opzioni professionali, come si sarebbe visto negli anni a venire. Sappiamo tutti che in seguito ha gestito un locale in Corso Garibaldi e che dopo essere andato in pensione si è dedicato alla letteratura. Oggi come oggi lo si può considerare a buon diritto uno scrittore di gialli. Ricorderete forse che dalla sua prima opera, Tre giorni a luglio del 97, ho avuto occasione di parlarvi a suo tempo. Alla seconda, Quattro gocce d'acqua piovana, sta dando attualmente gli ultimi ritocchi, ma io ho avuto il privilegio di scorrere il manoscritto e posso assicurarvi fin d'ora che merita di essere letta. Ne parleremo quanto prima in sede opportuna. Valpreda, giallisticamente parlando, non è un modernista. I suoi romanzi non mancano di originalità nell'ambientazione e nella caratterizzazione, ma si rifanno abbastanza tranquillamente alla tradizione del voodoo-nit, del giallo enigma, di quello che ruota attorno a un mistero che il lettore è chiamato a risolvere insieme al protagonista. Diciamo più che a un James Ellroy, è vicino ad Agatha Christie o Ellery Queen, agli altri autori che eccellono per la capacità di inserire nella narrazione con intelligente parsimonia quegli indizi capaci di guidare o più spesso di depistare il lettore curioso. Ma nemmeno Agatha Christie, sapete, avrebbe avuto il coraggio di utilizzare un indizio che nella vicenda giudiziaria di Valpreda, nella persecuzione giudiziaria di Valpreda, ha avuto una certa importanza. Nessun autore di gialli, neanche il più scalcagnato, avrebbe affidato la possibilità di inchiodare il colpevole di uno dei suoi delitti al vetrino che apparve per poi scomparire nella prima fase dell'indagine sulle bombe di Milano. Io non so se qualcuno ricorda la storia del vetrino di Valpreda. Io, lo confesso, l'avevo dimenticata. Mi è tornata in mente solo perché me l'ha ricordata Felice, che sa dei miei interessi per questo tipo di cose. È una storia che parte con il rinvenimento alle 16:25 di quel 12 dicembre 1969 nella sede centrale della Banca Commerciale di Milano in Piazza della Scala di una borsa di colore nero contenente una cassetta metallica. Nella cassetta, si scoprirà nel corso del pomeriggio, c'è una bomba simile presumibilmente a quella che 5 minuti dopo avrebbe fatto strage in Piazza Fontana. Ciò voleva dire che dei 5 attentati di quel giorno, 3 a Roma e 2 a Milano, uno evidentemente era fallito. Un colpo di fortuna nella disgrazia generale. È un aiuto inaspettato per gli investigatori, disponendo di un ordigno inesploso, del contenitore usato per trasportarlo, nel ragionevole presupposto di un collegamento tra l'attentato mancato e quelli riusciti, potranno ricavarne chissà quanti elementi essenziali per le indagini. Potranno determinare il tipo d'esplosivo, la sua quantità, le caratteristiche del meccanismo di innesco, tutti elementi preziosi per risalire a chi aveva la possibilità di disporre di quell'esplosivo in quelle dosi e di quei meccanismi. Con un po' di fortuna potranno trovarci persino delle impronte digitali. La verità, per un caso del destino, potrebbe essere a portato di mano. Beh, non era a portato di mano. Non sarebbe successo niente del genere e qualcuno, non si è mai saputo chi, decide che la bomba della commerciale è pericolosa, e anche qua bisogna vedere a chi per chi era pericolosa, e va fatta brillare all'istante. Il perito artificiere incaricato non è d'accordo, lo scriverà nella sua relazione, dice che la si poteva disinnescare benissimo senza pericolo. A Pavia e a Brescia esistono delle strutture militari perfettamente in grado di prendere in consegna l'ordigno e di disinnescarlo. A Brescia, anzi, si dichiarano disponibili a farlo. Ma non importa a nessuno. La bomba viene fatta esplodere direttamente nel cortile della banca. Nella fretta ci si dimentica persino di pesarla, precludendosi la possibilità di sapere quanto esplosivo conteneva. Indizi, informazioni, impronte vanno letteralmente in fumo. Ma resta naturalmente la borsa. È una borsa di produzione tedesca, di un tipo venduto in Italia soltanto in pochi negozi, il cui elenco è disponibile presso la fabbrica. Non ci vorrebbe molto per indagare su chi ne ha acquistato recentemente un lotto, come minimo 5. Ma una ricerca del genere evidentemente avrebbe senso solo se servisse a scoprire chi ha preparato ed effettuato gli attentati, e questo gli inquirenti lo sanno già dopo un paio di giorni. A preparare gli attentati sono stati gli anarchici e in particolare Valpreda. E allora devono essersi chiesto perché sciupare del tempo, li avrà comprate lui o qualcuno per lui, visto che l'informazione che potrebbe fornire la si sa già, tecnicamente la borsa non è un indizio. Ma di un indizio qualsiasi se ne ha bisogno. Ed è un peccato lasciare inutilizzato un reperto così importante, e così dalla borsa salterà fuori finalmente il vetrino, quando non lo si sa, perché il verbale relativo è datato 14 dicembre 99, ma per qualche motivo non è redatto sull'apposito modulo, ma su un foglietto volante scritto a mano e firmato da mano non riconoscibile, o comunque da una mano sola, e l'elemento entrerà in istruttoria soltanto quando verrà interrogato il 16 luglio 1970, 7 mesi dopo, il dottor Russomanno. Voi non ricordate il dottor Russomanno? Era l'inviato speciale del Ministero degli Interni, in pratica il super poliziotto incaricato di coordinare le indagini. E il 16 luglio del 70 Valpreda ormai era stato arrestato, identificato, promosso a ruolo ufficiale di mostro ed era in attesa di processo. E il dottor Russomanno avrebbe raccontato al giudice Occorsio di aver esaminato la borsa insieme al commissario Zagari, voi ricordate il commissario Zagari, suppongo, e che costui, nello scorrere nel fondo con le dita, vi aveva notato la presenza di un frammento di sostanza sconosciuta che a lui era sembrato un grumo di colla, ma che l'altro aveva subito individuato per un cristallo in senso minerario, un pezzo di vetro. E il giudice istruttore, desideroso di conferme, avrebbe riesaminato personalmente la borsa, provvedendo anche al distacco del cartone incollato sul fondo stesso, per scoprire che a 7 mesi di distanza vi erano ancora celati certi minuti frammenti di sostanze vetrose e metalliche che si sarebbe subito provveduto a repertare. E che c'entravano con le bombe, chiederete voi, dei minuti frammenti di sostanze vetrose e metalliche? C'entravano soprattutto se si sa, come gli investigatori sapevano, che Valpreda, tra le sue molteplici attività, aveva anche quella di produttore artigiano di lampade modello Tiffany. E siccome le lampade Tiffany sono composte da frammenti di vetro colorato saldati tra loro da strisce di piombo, nulla di più naturale che di vetri e piombini in casa Valpreda ne girassero a iosa. E allora, se si trovano frammenti di vetro, un vetrino, frammenti di vetro e frammenti di metallo in una borsa che ha contenuto una bomba, se ne deduce che l'assassino, come in ogni giallo che si rispetti, ha lasciato la firma. E in un periodo in cui, diciamo il luglio del 70, in un periodo in cui sulla colpevolezza degli anarchici cominciano a sorpeggiare dei dubbi, diciamo così, è una boccata d'aria per l'accusa, e non sono pochi i giornalisti di regime che intitoleranno i loro pezzi in quel senso. Ahimè. Se andiamo avanti nel tempo, scopriamo che di tutta questa costruzione, nei rinvii a giudizio e nelle sentenze, non rimane più traccia. Il vetrino a un certo punto è sparito dagli atti, una volta per tutte. E se ne capisce anche il motivo, pensarci un po' bene, col senno del poi. Un indizio può servire a qualcosa in un giallo, anche se Hercule Poirot, già in un racconto del 22, ironizzava su quei colpevoli tanto cortesi da lasciare in loco guanti, nettapippe, portasigarette cifrati e quant'altro. Ma nel concreto può essere anche imbarazzante. Per servirsene bisogna sapere ipotizzare le circostanze in cui e per cui qualcuno l'ha portato sul luogo del delitto e ce l'ha lasciato. E l'unica ipotesi praticabile nel nostro caso è quella di un dinamitardo pasticcione distratto che, avendo acquistato un certo numero di borse in cui collocare i suoi ordigni, se ne serve anche, visto che c'è, per trasportare gli oggetti che utilizza per la sua attività d'artigiano, ed è tanto distratto da dimenticarcene uno. Può succedere, può succedere di tutto. Pensate che l'accusa è la stessa che ha ipotizzato che Valpreda, a collocare la bomba alla banca dell'agricoltura, ci sia andato in taxi e prendendolo a 300 metri di distanza dalla meta. Insomma. Però l'idea, a quanto pare, l'idea del vetrino non riesce a convincere. Chi si intende di queste cose capisce che prima o poi quell'oggetto sarà destinato a sparire. E sparirà. Sparirà per la previsione quando per il pubblico ministero dovrà bocciare un'accusa di falso presentata dalla difesa contro la polizia proprio in relazione al vetrino, e visto che nessuna analisi di laboratorio era riuscita a trovare il benché minimo rapporto tra quel cristallo in senso minerario e il materiale vetroso sequestrato in casa di Valbreda, e per farlo il PM non troverà di meglio che scrivere nero su bianco che quell'oggetto come prova non conta assolutamente niente, e quindi perché mai qualcuno avrebbe dovuto falsificarlo, no? E per spiegare come mai comunque lo si era trovato, farà presente che in quella famosa borsa, dopo il rinvenimento, furono raccolti alcuni reperti del brillamento dell'ordigno esploso nel giardino della Comit, per cui il vetrino potrebbe anche esservi finito nella borsa, attaccato a qualche reperto d'altro tipo. Cioè, all'ipotesi del dinamitardo inetto si sarebbe sostituita quella dei poliziotti pasticcioni che usano una prova importante come fosse un sacchetto da supermarket e non si ricordano neanche che cosa ci hanno messo dentro. Sono due scenari simmetrici ma di segno opposto e ovviamente sono destinati a dividersi. E così è stato. Ma questa naturalmente non è una spiegazione. Di prove che non valgono la carta usata per involtarle sono piene le inchieste di quegli anni e dei successivi, tanto è vero che a un certo punto ci si inventeranno i pentiti e della necessità di fornire prove si farà meno una volta per tutte. Il fatto è che al momento del rinvio a giudizio, nel 71 mi sembra, l'ipotesi Valbreda ormai cominciava a far acqua da tutte le parti, il materiale che emergeva via via dalle varie controinchieste, che sarebbe stato prima o poi ripreso dalle indagini della magistratura di Treviso, e spostava l'attenzione altrove. E quell'esigua, contraddittoria, cialtronesca prova materiale, predisposta evidentemente chissà da chi nella prospettiva di un'inchiesta più lineare, più concentrata sulle belve anarchiche, oramai non poteva che dare fastidio. Ma provate a pensare che cosa sarebbe successo se tutto fosse andato come era stato previsto che andasse. Quel vetrino, per quanto futile e insignificante fosse la sua presenza, sarebbe ancora lì. Solido, granitico attestato della colpevolezza di un ballerino anarchico che in mancanza di scritture si guadagnava da vivere fabbricando lampade di vetro colorato ed era stato vittima di una fase politica troppo tollerante, troppo di sinistra, troppo pericolosa. La sua presenza non avrebbe retto un'analisi appena seria, naturalmente, ma chi mai si prende la briga di analizzare le sentenze? D'altronde sappiamo bene tutti che non ce n'è mai un vero bisogno. Nei processi politici, da che mondo è mondo, l'unico fattore che spiega davvero le condanne è la volontà del potere di irrogarle, al di là della buona fede degli stessi magistrati e degli inquirenti e della credibilità degli elementi d'accusa, vetrini compresi. La volontà di irrogarle, a meno naturalmente che qualcuno non riesca a impedirglielo, come in questo caso per una volta siamo riusciti a fare. She's got everything she needs, she's an artist, she don't look back.